I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. Proteggere dalle paure e sollevare dai dolori, prendersi cura di qualcuno fino ad ora, significava soprattutto esserci, far sentire la propria presenza, anche fisica, ai più indifesi in particolare, al neonato da allattare, all'anziano da aiutare. Prendersi cura fino ad ora significava soprattutto, oltre ai gesti concreti, quell'abbraccio, quella carezza, quell'incoraggiamento, quella compagnia capace di rassicurare, di incoraggiare, di superare le correnti gravitazionali, come canta Franco Battiato, per dileguare o almeno per attutire le preoccupazioni, le solitudini, le ansie e le ipocondrie. Ebbene, con l'epidemia tutto questo è svanito quasi del tutto, ed è svanito soprattutto per coloro che di questa cura quotidiana vivono, i più fragili, gli anziani che si ammalano, che lottano e che muoiono sempre più spesso da soli. La situazione è abbastanza critica. La situazione che c'è in tutte le case di riposo, grande preoccupazione per i nostri anziani, per i nostri nonni, grandissima preoccupazione anche vicinanza ai dipendenti, agli operatori e anche alle famiglie, le famiglie che purtroppo devono subire questa situazione non potendo andare a trovare i loro cari. Giacomo Uccelli è il sindaco di Barbariga, il comune del Bresciano, con una casa di riposo divenuta un lazzaretto di sofferenza. 7 anziani morti per coronavirus, altri 5 che lottano in questo luogo che, come altre strutture, è diventato un'isola inaccessibile, e dalle aree a più forte contagio si leva il grido d'allarme e anche di dolore. Le porte chiuse, le visite vietate, i controlli all'ingresso. Ma troppe volte il virus entra comunque e le case di riposo diventano le più fragili trincee di questa lotta all'epidemia. 5 morti in un solo giorno in una residenza di Quinzano, in provincia di Brescia. In Val Seriana, a Gandino, 15 sono stati gli ospiti che non ce l'hanno fatta dall'inizio dell'emergenza. A Mediglia, nel Milanese, 25 anziani deceduti in 23 giorni. Il virus ha travolto come un'onda ospiti di altre strutture, in Lombardia ma anche nelle Marche, con percentuali di contagio molto alte. E la triste contabilità di morte coinvolge altre case di riposo. Talvolta ci sono interi reparti in quarantena. Qui restano anziani contagiati che non possono essere portati in ospedale. E qui, troppo spesso, muoiono, lontani da figli e nipoti a cui è vietato l'ingresso. Così, chi è lucido, racconta una dottoressa, si angoscia e tutti sono disorientati. Diteci se dobbiamo diventare dei lazzaretti, alza la voce il direttore di un'altra residenza sanitaria per anziani. Quando il virus entra in questi luoghi che dovrebbero proteggere i più fragili, è poco più che il caso alla fine a stabilire i sommersi e i salvati. È come se all'improvviso queste case per anziani fossero diventate come quella nave, la Princess Diamond, rimasta senza possibilità di approdo per settimane, col suo carico di malati e di morti. All'interno la sofferenza non è solo per chi si ammala, ma anche per quella quotidianità che all'improvviso è stata svuotata della cura, appunto. E su questi si sofferma una giovane dottoressa milanese che è stata ora arruolata a pieno regime da una residenza per anziani per via dell'emergenza. Praticamente da un mese i nostri pazienti non possono più vedere i parenti. Sono interrotte tutte le attività degli educatori e degli psicologi, quindi non vengono più stimolati, si annoiano, quelli lucidi si angosciano e i pazienti dementi non sono più per niente stimolati, chiaramente. In più vederci con le mascherine li fa angosciare ancora di più, perché non possono vedere anche i sorrisi, la mimica facciale, che sono un mezzo molto importante di comunicazione con i nostri pazienti. Il personale, sia medico sia infermieristico che di operatore, operatori sociosanitari, che comunque nell'RSA sono fondamentali, e il personale decimato, sono nel panico, facciamo tutti doppi e tripli turni con l'ansia di infettare i pazienti, i nostri colleghi, ma anche i nostri cari a casa. Dal punto di vista clinico brancoliamo abbastanza nel buio, perché non conosciamo bene questa patologia e perché siamo rimasti quasi solo medici molto giovani, senza il supporto dei più esperti, che sono o a casa malati o reclutati nei reparti Covid. Covid. Ad esempio, il nostro istituto ha dato un reparto per i convalescenti Covid, quindi 40 dei nostri pazienti sono stati spostati in altri reparti che sono diventati praticamente degli ostelli. Questo vuol dire che abbiamo pazienti disorientati, li abbiamo spostati di posto, non hanno più gli operatori a cui magari sono abituati anche da anni e i loro compagni di reparto con cui erano anche diventati amici, prendevano il caffè insieme, eccetera. Questa settimana sono finalmente arrivati i tamponi e abbiamo dei reparti con pazienti positivi, come era purtroppo molto prevedibile. Stiamo riscontrando forme anche lievi, anche negli anziani, fortunatamente. C'è stato un momento in cui noi veramente temevamo una strage, invece fortunatamente non si sta verificando, ma il campo della geriatria Covid non è molto approfondito perché per questioni di spazi negli ospedali gli anziani non hanno accesso alle terapie intensive, quindi andiamo un po' per tentativi. Se dovessero peggiorare, ma anche se dovessero stare male perché hanno una frattura perché cadono o hanno un infarto o altre patologie, dobbiamo tenerceli, non possiamo mandarli in pronto soccorso anche se non abbiamo i mezzi di cura adeguati, perché gli ospedali sono oberati e non accettano più i nostri pazienti già da varie settimane. Non riesco a non pensarci e vi confesso la solitudine delle persone anziane, disorientate e malate, lontane dai loro cari in queste case di cura divenute inaccessibili, è diventato un pensiero per me angosciante. Angosciante quasi quanto la perdita del lutto con l'impossibilità del congedo dai propri cari. Questo è il volto più straziante di un'emergenza che ci sta cambiando tutti, privandoci anche del conforto. Un'emergenza che si combatte su molti fronti, che ha nelle strutture per anziani la sua trincea più fragile, senza dubbio, e che invece trova nelle ambulanze il primo avamposto, come ci racconta Cristina Carpinelli. Centinaia di interventi al giorno, turni che vanno oltre le 14 ore e il lavoro frenetico di chi presta il primo soccorso si fa appena in tempo a sanificare l'ambulanza che c'è già una chiamata, racconta così Maurizio Bonomi, presidente della Croce Rossa di Bergamo. Spesso e volentieri l'emozione sale, ingroppa la gola, però i loro occhi che ti ringraziano sono il miglior regalo che possiamo avere. Si combatte con l'emozione per raccontare qualcosa che per molti era davvero impensabile potesse accadere. Non ho una paura personale perché tanto il lavoro da fare, per cui sei immerso in un'operatività veramente acceleratissima. Ovvio che quando torni a casa pensi che in qualche modo attraverso il tuo operato stai probabilmente chiedendo un ulteriore sacrificio alla tua famiglia. La paura c'è, ma deve essere una paura proattiva alla protezione mia e dei miei compagni di lavoro in questo momento. Situazione grave, sono come tutti preoccupato per i miei familiari, per i miei cari, ma in questo momento so che c'è da fare. Purtroppo in questa pandemia ad ammalarsi sono anche le persone che invece ci curano. Il 10% dei contagiati sono proprio medici, infermieri, operatori sanitari nel loro insieme e si piangono già anche non poche vittime tra i camici bianchi, soprattutto nelle aree a più forte contagio come le province di Bergamo e di Brescia. Anche per questo si ha sempre più bisogno di nuovi medici e di altri infermieri e volontari che si facciano avanti. Per questo si sono accelerate lauree, sono avvenute abilitazioni d'ufficio, si lanciano appelli. Dopo la discussione della tesi, da sola nel suo salotto, è pronta a farsi avanti anche Ada Vrauriti, appena laureata in medicina all'Università Statale di Milano, consapevole però, ci dice, di non poter sostituire colleghi esperti. Per ora infatti sono abilitati all'esercizio della professione medica soltanto gli studenti che hanno conseguito la laurea nelle sessioni di luglio e ottobre 2019 e che hanno già svolto il tirocinio pratico post laurea nel periodo tra novembre e gennaio. Noi laureati di marzo, per essere abilitati, dobbiamo ancora svolgere il tirocinio post laurea di 3 mesi. Questo verrà invece svolto obbligatoriamente per laurea a partire da marzo 2021 ed è per questo che si sta parlando di laurea abilitante. Personalmente, da studentessa neolaureata e ancora molto inesperta, non me la sento di dire che sono pronta per lavorare e affiancare medicina alla gestione di questa emergenza. La laurea telematica ha sicuramente alleggerito il carico di stress dovuto alla discussione della tesi in persona. D'altra parte, però, al momento, per me è stato personalmente difficile gioire del risultato, in parte per la difficile situazione in cui ci troviamo, in parte perché ero lontana da familiari e amici cari e infine perché ho ancora molti dubbi su cosa fare in futuro. Ho discusso la tesi a casa da sola, ma per fortuna ho sentito poi la mia famiglia e i miei amici tramite videochiamata ed erano tutti molto contenti. A loro, ai medici, tutti noi ci affidiamo nei nostri momenti di maggiore difficoltà perché si prendano cura del nostro corpo, ma anche della nostra interiorità, provata dalle limitazioni di questi tempi, spaventata dai rischi, angosciata anche da notizie false che circolano e che un medico, Roberto Fumagalli, direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Guarda di Milano, ha voluto fugare. In questi giorni sono girati messaggi, anche audio, allarmanti, sbagliati. Non è vero che lasciamo morire i pazienti. Non è vero che non intubiamo i pazienti anziani. Non è vero che scegliamo chi curare in base all'età. E non è vero che le terapie intensive sono piene di giovani. Vi chiedo quindi di non contribuire alla diffusione di questi messaggi e di affidarvi soltanto all'informazione qualificata. E vi chiedo anche di fare la vostra parte, evitando quanto più di spostarvi e di uscire di casa. Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di storiacce. One Express, il pallet espresso. Vi presenta i racconti di storiacce di Raffaella Calandra. Ti proteggerò dalle paure dell'ipocondria. È soprattutto a sera che tutto diventa più difficile. Quando fuori le sirene si susseguono, dentro gli allarmi si rincorrono e chi resta in corsia lotta per dare medicine ma anche conforto. È soprattutto a sera, quando il buio avvolge letti e tubi di terapie intensive ormai sature, che la solitudine diventa l'ultimo nemico e dietro gli scafandri le lacrime rigano i volti tanto dei malati per coronavirus quanto di medici e infermieri. Facciamo dei grandi, grandi piatti. Cioè io quando ho raccontato di quel signore di 42 anni che mi ha stretto la mano, ma che giurami che mi sveglio, sono crollata in un pianto, gli ho fatto una promessa che non lo so se se la potrò mantenere. Sono quelle cose lì che ti toccano l'anima proprio. La chiama trincea, Maria Cristina Settembrese, infermiera del San Paolo di Milano, quella corsia dove ogni giorno combatte contro il virus, ma anche contro l'isolamento dei pazienti, contro il quale il telefono diventa l'unico ponte verso i loro affetti. È un isolamento bruttissimo perché nel nostro reparto è chiuso, i parenti non possono entrare, cioè loro hanno solo noi e sono sotto questi caschi. Noi abbiamo in faccia mascherina, casco, siamo tutti bardati, quindi si vedono anche a noi solo gli occhi. Ed è tutto un contatto dell'anima, ci colloquiamo con loro a gesti, si fanno segno che vogliono il telefono per vedere qualche parente, abbiamo pochissimo tempo, però quando li vedi proprio che sono in crisi, allora che ti metti lì, gli fai il numero, gli fai la videochiamata, così almeno loro si vedono, vedono i nipoti, vedono i figli, cioè... matto di umanità, insomma. Anche perché questo isolamento rende ancora più penoso e doloroso questa battaglia. Ma certo, perché loro sono in una stanza due con a fianco un estraneo che anche lui il casco non si possono neanche girare per guardarsi. Sono totalmente isolati dal mondo esterno e le uniche figure che vedono sono o i medici o gli infermieri. Che entriamo velocemente, meno stai nella stanza meglio è anche per noi per tutelarci. Perdi quei due secondi proprio stai a fargli una carezza sulla gamba, a fargli un segno di ok, tutto a posto, gli mandi un bacio, dai tutto ok, cerca di farcela, è straziante perché non hanno la possibilità di avere un parente che ti stringe la mano. Le telefonate sono un rito che a volte può aiutare a guarire, come i ventilatori, o può diventare un congedo da figli e nipoti da cui i pazienti non possono ricevere neanche una carezza. E questa solitudine è il nostro ultimo nemico, sussurra Paola Nicolini, medico di base di Bergamo, qui dove i necrologi, che riempiono sempre più pagine dei quotidiani, sostituiscono ormai i funerali. Il coronavirus è arrivato come un'ondata, imprevista, sconosciuta, ci ha travolto tutti. Abbiamo fatto rete tra noi medici prima, con i pazienti subito dopo. La disponibilità che è diventata poi alleanza, alleanza con quelli che ci chiamavano, con i pazienti che volevano essere informati e che ci dicevano i loro sintomi, disponibili a essere richiamati nell'arco di tutta la giornata fino alla sera, quando dopo 150 telefonate non c'è più la voce e non c'è più la forza di andare avanti. ed è importante essere il baluardo ultimo prima dell'ospedalizzazione, quindi fermare questa enorme marea. Ogni giorno Paola e tutti gli altri medici bergamaschi racimolano le ultime forze per continuare a resistere, anche contro il crescente sospetto che il quadro sia ancora più drammatico. Lo denunciano i volontari delle ambulanze e tutti gli operatori, i primi a rischiare anche per carenza di dispositivi, come denuncia a Katia Caramelli Mariella De Assis del sindacato Nursing Up. Un infermiere può dover lavorare anche 14-16 ore continuative in una situazione drammatica, senza poter bere, ristorarsi anche 5 minuti, perché la cosa più importante, mancano i dispositivi di sicurezza, e quindi per poter risparmiare sull'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, che sono le mascherine, visiere, evitano di doverseli togliere per poter bere, perché poi quei dispositivi vanno sostituiti. Li abbiamo visti stremati, accasciati, in foto divenute simbolo dell'emergenza, ma li vediamo anche combattivi nell'implorare tutti gli italiani di restare davvero a casa. Io spero che rimangano a casa, perché veramente se si inizia, vabbè, vado solo a fare una passeggiata, vabbè, vado solo a fare una corsetta, vabbè, vado a fare la spesa tutti i giorni, cioè non va bene, perché non si scrive proprio niente, allora è inutile chiudere tutto. Si chiude l'Italia e nel silenzio delle strade rimbombano ancora di più le sirene delle ambulanze dirette verso ospedali sempre più grandi. Si creano nuovi posti letto, si aprono strutture ex novo, come quella nell'ex Fiera di Milano, si allestisce un ospedale da campo a Bergamo e un reparto nuovo all'interno del San Raffaele, dove stanno arrivando più casi anche da Milano città e anche giovani. È l'allarme del primario della ribattezzata area Covid Moreno Tresoldi. L'ondata su Milano non so se è iniziata veramente o sta per iniziare. Stiamo cercando di ridurre l'ospedalizzazione migliorando l'accoglienza sul territorio. Voi da un punto di vista, diciamo, di strumentazione e di personale come siete messi? Ci stanno, diciamo, reclutando anche, non so, i più giovani? C'è stata una chiamata alle armi di tutti i colleghi, di tutte le specialità e anche dei giovani specializzandi che ci stanno dando una grossissima mano in questa situazione drammatica. Come in ogni guerra, allora, arriva il momento in cui si arruolano anche i più giovani, dottori ed infermieri ventenni, per i quali si accelerano le lauree, si saltano i percorsi abituali, si mandano a combattere subito, abilitati d'ufficio per effetto del decreto Cura Italia, come è stato per Davide Restelli, giovane medico milanese. Secondo me le parole chiave in questo momento devono essere due: prudenza e umiltà. Noi siamo neolaureati, siamo dei neonati da un punto di vista di conoscenze cliniche. La gestione del paziente con polmonite interstiziale da coronavirus è complessa, quindi non è sicuramente il nostro scopo andare all'arembaggio. Quello che secondo me noi potremmo fare è un supporto, quello che già stanno facendo i tantissimi medici impegnati, quindi supportare, alleggerire il sistema, aiutare il sistema, speriamo con le dovute tutele. È su varie linee che si sta combattendo questa battaglia, dagli ospedali agli ambulatori alle strutture per anziani, dove è bloccato da settimane ogni ingresso e il disorientamento e la solitudine diventano i nemici di pazienti fragili confinati nelle strutture, talvolta anche quando positivi al virus. Proprio come in una vera guerra, a Bergamo arrivano i medici dell'esercito, ma ogni giorno, insieme ai numeri del contagio, i timori si allargano anche a sud, in sistemi sanitari più precari, dove può succedere che volontari delle ambulanze debbano comprare da sé le mascherine o che vedano pazienti con forti sintomi a cui non si faccia nemmeno il tampone, come denuncia dalla campagna questo operatore che preferisce restare anonimo. La mia preoccupazione, la domanda che mi pongo è se i pazienti sospetti Covid-19 che trasportiamo in ospedale o che lasciamo a domicilio facciano tutti il test con il tampone faringeo, avendo informazioni indirette che in alcune province tale procedura non venga effettuata sistematicamente. Vista dalla trincea degli ospedali, le immagini delle persone che ancora troppo escono di casa provocano sconforto e preoccupazione, perché senza una diagnosi chi non ha sintomi della malattia o i loro familiari continuano ad uscire anche se si tratta solo della spesa. Il Sud prova a blindare blindarsi con zone rosse e con la chiusura dei collegamenti come in Sicilia, mentre si reclamano, come fa il capo della Protezione Civile calabrese Domenico Pallaria, più strumenti. C'è l'assenza di attrezzature per la protezione individuale che stentano ad arrivare e quindi questo è un'emergenza dell'emergenza. È entrata ufficialmente la primavera, ma per tutti noi, chiusi nelle nostre case e nelle nostre preoccupazioni, nei nostri dolori, questa fase di speranza, di apertura al mondo, di rifioritura è al momento rinviata, di quanto dipenderà proprio da noi. La primavera, con i suoi colori e le sue bellezze, può essere in questi giorni una lusinga ingannevole però. E allora proprio per questo voglio rimandare quest'audio cartolina che era stata spedita a Storiacce da Maurizio De Giovanni, scrittore molto amato, autore di Napoli, una città che vive da sempre soprattutto di contatti umani, di aria aperta, di vicinanza. Qui purtroppo i contagi stanno aumentando e allora non è questo il momento per andare a ammirare la nostra bellezza. Napoli è una città meravigliosa e in questi giorni è molto più bella, è piena di sole, è piena di luce, i colori si mischiano meravigliosamente, l'azzurro del mare, quello del cielo, il rosa della montagna e anche tutti i gialli, i verdi e i rossi dei palazzi storici che si possono guardare dall'alto e passeggiando. L'invito è uscire, ma è un invito perfido, un invito al quale dobbiamo rinunciare. In questo momento è fondamentale, è importantissimo che noi tutta questa bellezza la ricordiamo, ma non abbiamo voglia di andarla a vedere. Non è il momento di stare fuori, non è il momento di stare per strada, non è il momento di cercare gli abbracci e le carezze. Questa malattia è perfida perché è una malattia senza carezze, è una malattia che ci porta ad allontanarci, che ci porta ad avere una distanza. È una distanza illusoria, non è la distanza dei cuori. Noi dobbiamo essere in questi giorni vicini col cuore a tutti quelli a cui vogliamo bene, perché stare lontani in questo momento è volersi bene. È una cosa strana, è il contrario di quello che dovrebbe essere, ma in questo momento volersi bene significa evitare di stare vicini, evitare di stare uno sull'altro, evitare gli abbracci, i baci, evitare tutte le occasioni per consentire a questo maledetto virus di farci del male. Non è una malattia sociale, è una malattia della solitudine, ma soltanto attraverso la solitudine noi possiamo arrivare a riguadagnarci il diritto e il piacere di abbracciarsi e di volerci bene. Sarà più bello ancora, sarà molto più bello camminare per le strade di questa meravigliosa città quando verrà l'estate e tutto sarà finito e poter avere in tutto questo un brutto ricordo. Quindi siamo lontani, siamo soli, siamo a casa, questo è il momento di ritrovare i nostri equilibri per poi avere di nuovo la gioia e la bellezza di stare insieme. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Prendiamoci cura di noi stessi, prendiamoci cura delle persone che amiamo. La nostra vita, la nostra salute dipende anche dagli altri. E per avvicinare il più possibile l'inizio effettivo di questa primavera, mettiamo i medici nelle condizioni di potersi prendere cura di noi, ascoltiamoli, restiamo davvero a casa, rispettiamo in tutto le regole e la primavera arriverà presto, crediamoci. Attraversano il mare. I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra. Potete riascoltare questa e tutte le altre puntate sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme podcast. Seguiteci e fateci avere commenti e segnalazioni sui social, su Twitter e Instagram. L'account è @raffcalandra. Ma soprattutto, ricordate, restate davvero a casa.